Sai su Radio Wombat, questa è Hot Wombat. Buonasera, buonasera, benvenuti alla nuova puntata di 8 Hertz. Stasera faremo una di quelle puntate sulle sperimentazioni tanto care quest'anno a noi e spero a voi, insieme all'ospite che cura un po' queste puntate, che si chiama appunto Filippo Panichi. Ciao Filippo. Ciao. Questa sera... Sì, ti si sente, spero si sente anche me. Questa sera parleremo un po', così buttiamo un po' l'amo per qualcosa che potrà anche risuccedere con altre persone, se vogliamo, cioè l'importanza di parlare di alcune etichette e di alcune compilation come mezzi per scoprire la musica delle persone anche... sconosciute o veramente che non hanno avuto spazio nel terribile sistema musicale mondiale, il nuovo ordine musicale, insomma. E una volta fece 8 Hertz qualcosa di simile attraverso una compilation non mi ricordo come si chiama, comunque di Allo Biafra, e poi anche su un'altra della SST, insomma, dove si fece una puntata molto differente appunto sul punk hardcore, però ecco, già lì poteva farvi capire l'importanza di scoprire dei progetti o delle musiche o dei musicanti attraverso l'uso della l'uso della compilation. Sì, in questo caso diciamo la scelta è un po' arbitraria, il discorso potrebbe essere anche estendersi a altri generi, altre etichette. Diciamo che ho preso delle cose di cui stavo parlando, stavo rivedendo in questo periodo, e tramite le quali io sono arrivato a determinati ascolti. Quello che stiamo sentendo ora è la colonna sonora di Andromeda Strain, che è un film di Robert Wise, molto bello anche come film, e che io ho sicuramente degli visto anni 70. Sì, del 71. 71, sì. Io sicuramente ho visto il film e non ho notato affatto la colonna sonora. La prima volta che l'ho visto, che invece è, insomma, secondo me è molto bella. Venni a conoscenza di questa colonna sonora tramite questa label chiamata Krill Pawn, che era un'etichetta che pubblicava in CDR roba che non si trovava, col disclaimer che se qualcuno aveva da fare rivendicazioni su diritti d'autore che li scrivesse, loro erano disposti a dargli una parte degli introiti oppure a togliere la cosa di circolazione. Quello a cui fa capo questa etichetta è un maghetto dei synth che si chiama Hate Fullerton Whitman, che collezionista abbiamo, di dischi. Forse abbiamo già fatto sentire qualcosa. Forse Non credo. No. Io a me piace molto la roba che fa. Non ne fa molta. Insegna anche da qualche parte, non mi ricordo dove. Tra l'altro la Railpon ha aperto una pagina YouTube e ha detto che metterà tutto il catalogo su YouTube, comprese cose nuove. Infatti una la mettiamo stasera, che l'hanno aggiunta ora. Io ho trovato questa roba, non ho mai visto un CDR vero della Railpon. Visto che poi hanno una grafica particolare, hanno la scritta Railpon marchiata, una cosa del sì, genere. Era una cosa molto di lui è un collezionista, spesso e volentieri. Cioè, era bello anche questo discorso di sia di archeologia sia di salvare delle cose dall'oblio, nel senso che lui, per esempio, di alcuni pezzi o di alcune cose non sa quasi niente quando le pubblica. Infatti parleremo anche relativamente poco dei musicisti in sì, sé. Infatti anche, cioè, sì, proprio perché sono veramente quasi sconosciuti, per cui diventa anche impossibile trovare notizie. Sì, per esempio altri che io conoscevo li conoscevo per cose che hanno fatto successivamente, spesso non sono neanche un granché, per esempio, insomma, un granché. Nino Nardini, che sentiremo dopo, ha fatto delle cose dopo, ma molto più ritmate, diciamo, commerciali. Quindi, comunque colonne sonore molto più in linea con cose, insomma. Anche il primo che mettiamo, che si chiama Giuliano Sorgini, il brano si chiama Solitudine Venusiana, da Elettro Formule, che è un disco del 72. Tra l'altro il disco della Railpon lo chiama Giuliani Sorgini. Sì, sì, sì. Per quanto ne so io, mi sa che avevano sbagliato. Comunque lui, sì, il disco e il brano è in non questo so disco che uscì nel 72, e loro poi appunto lo pubblicarono sotto Railpone nel 2009. Intanto lo mettiamo e noi parleremo sempre sopra di Andromeda Stain. Vabbè, bisogna citare e lui era appunto Giuliano Sorgini con Solitudine Venusiana, tutta elettronica, un po' che sembra un po' alla colonna sonora di film del periodo. E che cosa mi volevi dire? Stavo parlando del discorso di sempre del corpo. fatto che fino a un certo punto non so quanto il coinvolgimento di Kate Fullerton Whitman fosse, insomma, non so quanto lui avesse piacere se sapesse questa cosa. Certo. E, vabbè, dicevano di avere base in Islanda, penso per motivi legali anche. Comunque, vabbè, un'altra cosa che c'è da menzionare a riguardo è questa cosa che si chiama Vanguard Project, che non faremo sentire niente di loro perché, vabbè, è il mondo quello. È una cosa nata su internet da collezionisti e sono gente che ha fatto upload di dischi che avevano e che non si trovavano più, e spesso sono anche registrazioni fatte direttamente, cioè gente che è andata a un concerto e l'ha registrato, c'è un po' di tutto, insomma. Quindi, insomma, un catalogo stasera enorme. Stasera si analizza anche come fare a trovare delle cose anche, cioè ci sono tantissimi modi con i quali puoi arrivare ad ascoltare. Questo è come l'ho trovato io 10-20 anni fa, quando internet era un po' diversa da ora, e quindi c'era il file sharing e basta alla fine, e tutto quello era collegato, blog eccetera, insomma. Ci siamo fermati. Sì, perché mi piaceva. Infatti mi piaceva. Facciamo partire il pezzo successivo, sempre della stessa etichetta, ma stasera suonano quasi tutti della Creel Pon. Si chiama perché poi sbagliamo, sì, andiamo sul giappo. Ok. Beh, si chiama scritto Creel Pon, per chi volesse cercarlo anche sul tubo, appunto, ci sono via mettono dei pezzi. E è un'etichetta appunto di bootleg, cioè di dischi non ufficiali, cioè. Sì, erano proprio CDR. Che uscivano, insomma, per 50 copie e basta, tipo, per cui era quasi un gioco. Quasi un gioco che però ha fatto comunque, è riuscito a divulgare. Erano order, erano cose così, che però poi la gente ha ripasso, diciamo, e ha salvato in digitale, e quindi le 50 copie hanno fatto molto più effetto di quello, certo, delle 50 copie. Ma Kate Fullerton Whitman va benissimo, non è che lui importava di venderle. Infatti metto il brano successivo, che è di Nicholas Nick Pascal Rajcevic, penso si dica così, si chiama Robot Rock. Tra l'altro, visto che ti ho mandato, stanno ristampando della roba sua e Sì. E l'ho visto lo stesso giorno che abbiamo scelto i pezzi per la playlist. Sì, è vero, è vero. Mettiamola. E lui era Nick Pascal, come lo chiamavano, come si faceva chiamare. Sì, e, famoso, alle poche note che ho trovato, diciamo anche che era un suonatore di Moog, sì, e organista. Dice anche che era amico di... scusami, sto facendo confusione. Sì, comunque, insomma, io l'unica cosa che so è che ha fatto diversi dischi, tutti introvabili, e che le copertine sono disegnate da lui. Era tutta roba con temi un po' misticheggianti tra il fricchettone fantascientifico. Sì. Alcune sono molto belle, alcune sembrano proprio giocare col patch del synth, cioè esperimenti sulla sintesi. Lui era californiano, ma appunto questa etichetta, questa Krill Pond, era fissata, cioè lui il tipo era fissato anche con gli europei. Prima abbiamo sentito, se non sbaglio, il primo pezzo era di un italiano, e ora mettiamo un francese. Credo che sia italiano, perché diversa di questa cosa io... Ma c'hanno tutti i titoli italiani, sono con il nome italiano, per cui... Direi di sì, però io non ho controllato. E questo invece che mettiamo è scritto Nino Nardini, ma potrebbe essere Nino Nardini perché è francese, a quanto pare. Sì, sono francese. E il brano si chiama Galaxy in Canoe, per cui credo sia francese o si spacci per francese. Tiè, lo mettiamo. Thank you. E lui era Nino Nardini con Galaxie in Connu e appunto ancora una scoperta dell'acryl pon che ci permette di ascoltare personaggi che non avremmo mai potuto ascoltare della early electronics, ovvero della primissima ondata di elettronica sperimentale, insomma. Sì, abbiamo preso questa, poi diciamo che dopo affrontiamo una variante di questo argomento con un'altra etichetta, però questa volta giapponese. Come la Crippone è stata importante, diciamo, per me soggettivamente, penso lo sia anche per altri. Ci sono altre etichette lodevolissime che fanno un lavoro simile d'archivio e ne stanno uscendo sempre di più. Per esempio ora l'Edition Smego ha una collana apposta dove ristampano tutti i dischi della GRM, della INA GRM. Questa è un'altra bella cosa. Un'altra etichetta che fa queste cose è proprio italiana e si chiama Die Schachtel. È vero. E fanno delle cose soprattutto su roba italiana, ma non solo, che sono veramente niente da dire, bellissime. Magari sì, ci faremo una puntata. Sì, appunto, questo discorso è uno spunto, potrebbe continuare. Questa è una cosa che sorprese me per come era stata fatta e anche per l'artigianalità. Quindi, perché implica anche un po' un discorso sulla funzione della rete nel preservare certe cose, dato che gli diamo spesso addosso per altri motivi, ecco. E facciamo quindi ascoltare per ora un'ultima cosa della Crippon, che è proprio una chicca, perché è riuscito a scovare questo canadese che si chiama Bernard Bonnier e il disco si chiama Casse Tête dell'84, quindi è appunto un altro periodo rispetto agli anni 70 e credo a vedere un po' le copertine che ci sono su Discogs, la copertina di questo disco, e credo abbia fatto solo questo. Sa che era un pazzo non indifferente. Penso sia un cut-up, un collage di cose. Non so neanche esattamente, perché non ho mai sentito altro, però è un pochino più ritmato dei precedenti, sì. Quindi sì. Ho messo anche per quello. Farà ponte con i Giappo. Allora, Bernard Bonnier, I Can Sing. It's alright, it's just Bernard Bonnet ci ha fatto capire, insomma, come si può fare del funky soul, quasi una roba con un groove molto trascinante, attraverso il catap e risatine, ecco. Sì, è un disco molto, molto vario e molto diverso dalla maggior parte della produzione delle pubblicazioni Real Pawn. Sbarazzino e ritmato, direi, sì. Però anche piuttosto punk, lo-fi. Però cosa che sanno fare anche i giapponesi, perché non ho sentito di brani simili, o più tardi comunque. Ah beh, i giapponesi fanno tutto, fanno tutto di più. E appunto mi sono agganciato così, presentando questa etichetta o sottetichetta, ora vi spieghiamo tutto, giapponese. Allora, l'etichetta sarebbe la Edition Omega Point, e questa etichetta è specializzata nello scovare dischi vintage, praticamente passati, di elettronica anche abbastanza estrema, a partire già dagli anni 50 praticamente, no? Sì, credo che lui sia cioè Omega Point è un negozio, lui... è anche un negozio. Sì, sì, è partito però da questa cosa qui. Infatti, se guardi il recapito dell'etichetta, sì, l'indirizzo. Su Discord c'è proprio l'indirizzo del negozio. Del negozio. È un'etichetta fatta da uno che sicuramente è stato coinvolto nelle attività di una parte di questi personaggi. Si chiama Osamu Ibe. Parlo di quelli giapponesi. Perché alcune volte è citato in alcune cose che sono pubblicate dall'etichetta come esecutore. Spoken word, cose di questo genere. La maggior parte delle cose che pubblicano per quanto riguarda il Giappone, perché l'etichetta si occupa di musica, di early electronics di tutti, un po' di tutti i paesi, non solo del Giappone. Le cose più interessanti per noi sono questa collana, o a dire la verità sarebbero due collane, cioè Obscured, sì. Music of Japan. E come si chiama l'altra? Experimental Music of Japan. Sì. La differenza sarà tipo una cosa molto fine, sottile. Sì, principalmente Experimental Music of Japan è musica per spettacoli teatrali, spettacoli di marionette, cose che non sono state pubblicate. E c'ha un po' il senso di diffondere in Occidente una parte di lavori underground degli anni 70 giapponesi, e diciamo gli è riuscito benino questo ruolo, perché sono, secondo me sono dischi molto belli e di cose appunto che fanno capire come il Giappone potesse recepire le istanze di Cage o di altri. Spesso gente che ha studiato tipo Toshi Ishiyanagi, non so veramente Toshi Ishiyanagi, sì. Comunque troverete tutti i nomi iscritti sul podcast, sì, ci mettiamo un po' di link perché vabbè, tra le nostre pronunce e l'impronunciabilità di alcune cose, è uno che ha studiato con Cage, insomma ha studiato in America. Certo, però ne possiamo parlare dopo, perché intanto c'era il pezzo di Hiroaki Minami. Che sì, sì. Che questo disco uscì, si chiama Electronic Cosmos, Electronic Symphony Number One, e loro appunto la Obscure Tape Music of Japan l'ha pubblicato nel 2009, e credo che appunto fino a pochi anni fa, fino al 2009, non era mai stato pubblicato. No, penso che questa roba forse non sarebbe neanche mai stata pubblicata se non l'avessero fatto lui. Ascoltiamocela, è molto molto bassina. Non so, sì, però ho scelto il pezzo meno basso dei due che avevo preso in considerazione. Gli altri erano ancora più lunghi. Comunque, a parte le nostre fastidiose voci, potete tenere il volume abbastanza alto, che non ci sarà niente. In questa puntata non c'è niente di colpi strani, no? Forse alla fine, chi lo sa. Insomma, Return to the Cosmos di Hiroaki Minami. Yeah. Beh, che io lo rimetto sul biglietto. Praticamente finito. Sì. Thank you. Ecco, questo era il pezzo di Hiroaki Minami, che tra l'altro abbiamo scoperto che questo disco che fece... Sì, è un disco del 76, di cui l'unica cosa che so è che è stato scritto per la sua figlia che è morta. Diciamo appropriato. Comunque è molto bello tutto. Ora magari... va ascoltato un po' alto volume, perché sennò sì, è molto soffuso. E aspetta, allora, gli altri, per quest'altro brano invece che stiamo per sentire, invece è fatto da due personaggi che sono anche eminenti nel mondo accademico, e sono Yoji Yuasa e Kuniharu Akiyama. Chi sono loro? Yoji aspetta, devo ritrovare il tutto. Yoji Yuasa negli anni 50 era cofondatore della Jikken Kobo, che significa Experimental Workshop, che era un'organizzazione appunto dedicata all'esplorazione delle arti multidisciplinari. In effetti il brano che si ascolterà è tratto da questo disco che si chiama Music for Puppet Theater of Itomi. È anche stato ricercatore e professore all'Università della California di San Diego, dove appunto continua a vivere, quindi è diventato mezzo americano. Kuniharu, sì, credo tra l'altro sì, che insomma che abbia anche studiato in parte in America. Akiyama è anche un poeta, anche un critico, e cosa non sapevo, è sposato con Aki Takahashi, che è un pianista abbastanza, insomma, di una certa fama. Quindi cosa abbiano poi fatto, si diceva prima, se si tenta di trovare qualcosa è veramente difficile o impossibile. Yoasa è un po' più noto, però la maggior parte delle cose che io conosco e che ho sentito sono comunque cose uscite per l'Omega Point, non diciamo in queste collane antologiche, ma nei dischi che pubblicavano sì, correntemente in quegli anni lì. Quindi le cose vecchie in realtà sono, cioè, o questa o penso... Sì, per esempio il pezzo che sentiamo ora è una cosa scritta per un teatro di marionette. Di che anno? Non lo so. Si sa, francamente non si sa. E guardate che Filippo Panichi è anche un attento ricercatore di queste cose, sicché... se non lo sa lui... Piano piano, ma, diciamo che anche su questo, perché parlavo giorni fa con un mio amico e gli dicevo che quando io ho studiato insomma all'università, manuali su queste cose non c'erano, non lo so, forse ora ci saranno, non lo so. Io ci sono arrivato un po' per vie traverse, quindi ho un approccio un po' praticone, a volte... magari so delle cose, ma più perché l'ho sentite, perché realmente so che sei un nerd. Sì, sì, quello di sicuro. Senti, intanto lo mettiamo e poi continuiamo a discutere. Allora, Yoji Yuasa e Kuniharu Akiyama, Music for No Miso. Thank you. molto molto belle queste cose, secondo me, a mio avviso, eh. E abbiamo deciso di parlare un po' sopra alcuni brani perché la scaletta è veramente troppo lunga, quindi non ce la facciamo, per quanto sia possa risultare odiosa questa cosa. E sotto state ascoltando Toshi Ichine Yanagi, sempre uscito per questa, esatto, questa etichetta giapponese. E lui, anche lui è un vecchione, era il primo marito di Yoko Ono e studioso compositore, insomma, ci stava dentro, per dirla in un modo un po' grezzo. Sì, questa fondamentalmente l'ho scelta perché si chiama Music for Ting Li. Non so se conoscete Ting Li, ma era un artista che a me piace molto, che faceva queste specie di sculture spesso semoventi. Quello che c'è nel giardino dei, sì, tarocchi. Perché cioè, la parte quella, tra virgolette, industrial, è curata da lui, che era il marito. Era il marito di Nicky de Saint-Fall. Ah. Però, per esempio, lui faceva anche cose del tipo, non so, una volta mi sembra per in omaggio a un suo amico, mi sembra fosse, fece questa cosa in un bosco totalmente abusiva e morde e fuggi, cioè una specie di, come si può dire, come fosse, cioè come l'arte di strada, insomma, senza, sì, permesso, costruì questa specie di macchinario, semplicemente, insomma, era un tipo, aveva sta vena narcoide, mi piaceva molto. In effetti questa musica, questi suoni ricordano molto il suo operato fisico, insomma. Sì, perché poi, va bene, anche fin lì aveva un interesse nella musica. Comunque tutta questa cosa qui si congiunge un po' a delle influenze di Fluxus, appunto di Yoko Ono. Cioè un po' perché è giapponese, un po' perché il ponte tra giapponesi che sono andati a studiare in America, insomma, in quel periodo la poesia di Fluxus ci ha avuto derivazioni anche italiane. Certo. Insomma, se vi piacciono queste sonorità, che credo siano molto molto particolari e stra interessanti, le potete trovare cercando appunto i CD, che fondamentalmente sono i CD della Edition Omega Point, qui nella sottoetichetta Obscure Tape Music of Japan. Sì, questa roba si trova ancora anche da comprare, insomma. Mentre la Tempon sarebbe complicata. Tanto voglio dire, non è un discorso economico, perché non penso ci facciano soldi. No, oddio. Se ne hanno fatti, questa, ne hanno fatti per altre strade, insomma. Questa è comunque una cosa levemente più commerciale, però comunque, vabbè, commercialissima. No, più commerciale nel senso che comunque lui i CD li pubblica, sono CD, non sono CDR, c'hanno un mercato, li vende. Un mercato piccolo, come può essere, insomma, in questo settore qui, però sono comunque CD commerciali. Ci sono anche do it yourself, però insomma. Sì, questo sarebbe anche un discorso poi fattibile sulle etichette dei musicisti e le etichette, insomma, cioè ci sono altri esempi di etichette abbastanza missionarie, diciamo, con risultati vari, hanno perseguito un discorso e hanno fatto, diciamo, propaganda, i musicisti li stimavano. Certo. Che sono più, alcune sono anche, so, per esempio anche la Zadig di Zorno, che figuriamoci se è un'etichetta di nicchia. Insomma, Zorno le cose le sa vendere. Passano sempre le stati mai, sì, i dischi della Zadig. Ascolta, che dici? Torniamo sulle note della Krillpon, che c'erano altre due o tre cosine molto, sì, curiose da ascoltare. La prima era una cosa che mi ricordavo e che però ho trovato dopo, non lo trovavo, e in più c'è l'ultima, quella di cui si parlava prima. Esatto. Qualcosa. Ora parliamo di Reinhold Weber con questo pezzo che si chiama Gamma Express. È questo disco del 74 che si chiamava Electronisch più Phonetisch Composizione. Bene, infatti parliamo più che altro, lo sappiamo, sì, infatti, sentire, però, perché non so assolutamente niente. Però ci piaceva e Dio studio, mi piaceva il pezzo. E quindi lo mettiamo, buon ascolto. Thank you. Era un grande pezzo questo qui di Reinhold Weber, e siamo ritornati un po' nei meandri della fantascienza con lui, e forse anche un po' con la Trilpon, appunto, con tutte queste riedizioni bootleg degli anni di questi compositori degli anni 70, marcava proprio anche su questi tipi di orizzonti. Sì, vogliamo dire qualcosa sul pezzo del 22? Dopo mettiamo questo compositore, si chiama Zanagoria o Zanagoria, che dovrebbe essere un italiano se non sbaglio, però sì, si faceva chiamare così. Dice che sarebbe l'alias di tale Sideman, dice, di Morricone, che si chiama Giorgio Carnini. Esatto. Però la cosa curiosa, perché questa è l'aggiunta, una delle ultime aggiunte su questo nuovo account YouTube della Trilpon, la cosa curiosa è come ha scritto le note di questa release, diciamo, perché sono inizia con una cosa che scrisse lui per Pitchfork diversi anni fa, che dice: non ci sono molte informazioni su cui lavorare, non c'è nessun anno, nessuna biografia, le ricerche su Google, niente, è un italiano e sembra una cosa della lista del Nursultwund scartata, assomiglia a quella roba lì, e da lì si mette sulle tracce di cosa può essere. Quindi poi c'è l'aggiunta di dopo, anni dopo trova delle cose in più, appunto trova e le dice, le aggiunge. Quindi praticamente le note a questo video sono molto interessanti per vedere come procede, per incontrare le cose che gli interessano, si mette a cercare chi sono, un po' una specie di una vera ricerca, un archeologico, filologico, non so, a orecchio. C'è un punto in dove dice: qui c'è una cosa che sembra passata dentro un ring modulator che va dritto per 10 minuti, bello, a quei tempi si poteva fare. Come dire, ora si schifano tutti, si fanno cose del genere, però invece a lui piace perché è un giratore di Rosella. Lo mettiamo allora? Sì, che tra l'altro, cioè, l'ho scelto perché è bello, non solo per fare questo discorso. Scegliamo solo roba bella, che dici, che se no, cioè, ci si prova, la cosa peggio se lo dici. Vai, dopo questa introduzione, lui è Zanagoria e questo è il suo sound. Insomma, una roba molto giovane presentata così. Thank you. Lui era Zanagoria, bellissima musica, bellissimi suoni del 1972 questa roba. Intanto abbiamo fatto partire il pezzo successivo che è lunghino e, di sottofondo, ma poi lo lasciamo, è di Harold Budd. Questo pezzo si trova in uno dei dischi suoi, secondo me forse più famosi, che si chiama The Pavilion of Dreams del 1978, uscito per una label che si chiama Obscure Records, che è la label di Brian Eno, appunto all'interno quindi ci sono anche nomi grossi, oltre a produzioni dello stesso ci sono anche roba di Michael Nyman, John Cage tra i più grossi, insomma. Sì, c'è tutta la roba della Penguin Cafe Orchestra. L'etichetta di Brian Eno è un altro esempio, quello dicevo prima, di etichette fatte da musicisti. Brian Eno è un intellettuale, una persona che ha sempre avuto le idee chiare, ha salvato quelli che gli pareva cioè cose che vedeva e non sarebbero state probabilmente recepite, o che comunque seguivano la sua estetica, indipendentemente dal fatto, cioè non è che si conoscevano, anzi penso che, cioè, Harold Budd lo ringrazia per avergli fatto conoscere i suoi simili di oltreoceano, dice, cioè per averlo fatto incontrare con la gente in Inghilterra, faceva cose simili. In fin dei conti anche la Penguin Cafe Orchestra, per dire, roba completamente fuori dalle mode, non l'ho messa perché roba che perlomeno in un certo periodo, certo, degli anni 90 era anche inflazionata, diciamo. Molte cose ha pubblicato l'Obscure sono diventate poi famose un po' grazie al nome di Eno, un po' grazie alla qualità indubbia. Queste cose sono cose, io per dire, Harold Budd l'ho saltato a pie pari all'inizio perché mi sembrava troppo ambient, e quando ero ragazzino ero più ribelle e quindi andavo alle cose più estreme, e poi invece non voglio dire ho capito, magari invece mi sto rincoglionendo, però ci sono tornato dopo su quelli che mi sembravano meno avanti, non so, come nella musica classica Hindemith potrebbe sembrare meno avanti di Stravinsky, o Benjamin Britten rispetto idem. In questo caso il discorso di Harold Budd sulle melodie è proprio una reazione all'avanguardia. Lui è uno che ha fatto studi accademici e dice: le note di copertina di questo disco dicono tutto meglio di come lo dirò io in mezza pagina. Questo suo discorso è una reazione all'avanguardia, cioè lui reputava che il mondo dell'avanguardia fosse tutta una cosa ipocrita, dove non c'era più ricerca, c'era solo un discorso sociale e di intellettualismo ancora odierno, forse. Sì, può essere comunque applicato, cioè la sperimentazione non c'era, quindi prima si è rintanato a fare la sua ricerca decostruendo e togliendo tutto. È uno che parte dal free jazz, era un batterista free, e poi facendole da sé per conto suo queste cose, dopo aver fatto roba seriale, roba che probabilmente non sentiremo neanche mai. E poi ritorna alla melodia. Questo disco è un omaggio a Coltrane perché lui fa un discorso del tipo che gli piaceva la carnalità di Coltrane, il fatto che era mistico e che era connesso alle vibrazioni, insomma, non so come dire. E alla fin fine questa roba è bella, appunto. Ora ce l'ascoltiamo fino alla fine. Sì, la stazione. Thank you. questa era la stupenda melodia ambientale di Harold Budd, che appunto uscì con questo disco per l'etichetta di Brian Eno. Sotto la musica è finita e noi siamo all'ultimo pezzo che verrà messo. E, insomma, il pezzo era così intimo che a questo punto sotto ci rimane il silenzio e solo le nostre voci. Siate su 8 Hz a Radio Wombat, ascoltate Radio Wombat e tutti i suoi programmi, ce ne sono di nuovi quest'anno, più che altro per quanto riguarda le rassegne stampa. E scriveteci alla mail postwombat@inseveria.net, guardatevi un po' il Facebook, il Twitter, il sito ovviamente lo conoscete. Ascoltatela anche in frequenza AM alla 1359. Vi lasciamo con questo pezzo, io e il gentilissimo Filippo Panì, che si presta a queste maratone di musiche sperimentali difficilissime da trovare, non semplici neanche da ascoltare. Infatti vi ringrazio se state ascoltando questa puntata, spero che vi piaccia e che vi siate segnati qualche nome. Se non li capite, tanto verrà tutto scritto nel podcast, ecco, sotto. Sì, magari sotto ci podcast. Mettiamo anche un paio di link alle cose che abbiamo detto. Esatto. E quindi finiamo con lui, che si chiama Omit. Eh sì, perché un discorso su etichette e compilation, lui è l'etichetta di se stesso. Cioè, da fine anni 80 lui fa questa ambient, non so nemmeno come chiamarla, perché non è ambient, è proprio un lavoro molto personale. Sì, anche molto metallica. Autoprodotto, cioè, guarda, di tutto, cioè, da field recording impensabili, e li pubblica su cassetta e poi su adesso c'ha, non so però della verità, esiste una pagina Bandcamp sua. Tutte le volte sembra che abbia la capacità di nascondersi molto bene, perché tutte le volte cerco il sito e ci metto un po' a trovarlo, ma comunque è uno che fa tutto in analogico, fa tutto per conto suo e quindi grosso modo senza costrizioni di mercato. La sua etichetta si chiama molto, molto personale. La sua etichetta si chiama la Deep Skin Conceptual Mind Music. Sì, io, a dire la verità, non ci ho mai avuto un disco in mano suo. Poi recentemente alcune cose sono state pubblicate da etichette tipo l'Ellen Scardale Agency, che è un'etichetta piccola, però è roba che è fatta in America, insomma qui non la trovi mai e costa in genere anche abbastanzina. È uscito recentemente un cofanetto, e questo è l'altro discorso sulle etichette, in cui le note di copertina sono curate da Bruce Russell, che ha collaborato con lui, sigla Dust Omit, un paio di dischi molto belli, e però soprattutto è l'etichetta, la Pika Disc, l'etichetta è Lasse Marhaug, che è per me è un nome abbastanza monumentale della musica sperimentale. È uno che ha fatto un po' di tutto, ha suonato insomma con tanta gente di ambiti veramente diversi, dal noise lui fa noise grosso modo, ma ha suonato anche con gente, jazzisti e tutte le varie territori nel mezzo. E lui dice che Clinton Williams, che è il nome di Omit, è uno dei più grandi geni che ci siano, e che, insomma, di andarla a vedere dal vivo se vi capita, a noi mi sa di no, perché non credo venga. E di comprare qualunque cosa vi capiti a tiro. E lui ha ripubblicato quest'anno, cioè ripubblicato, non so che materiale è stato già pubblicato, un quintuplo sulla sua etichetta Pika Disc di lavori di Omit, che hanno insomma, è una cosa secondo me da... che merita di essere ascoltata e meriterebbe anche di essere comprata. Ok, quindi diciamo che lui fa parte un po' del modo più do it yourself di fare musica, no? Nel senso anche di sì, di farla stampa, e di diffonderla. C'è rimasto fuori un altro paio di esempi che avevamo pensato per questa parte di discorso di cose fuori dal mercato. Comunque sì, Omit è importante sia per il DI sia per il fatto che appunto qualcuno si è accorto del valore di questa roba, e sì anche per un discorso di coerenza, cioè una persona che persegue un discorso personale fuori da schemi di genere, perché non credo che questa roba si possa rientrare in qualcosa. Ora, se vi siete incuriositi, ora vero, ascoltate, il brano si chiama Link Up, tratto da Tracer, che mi sa che questo disco invece forse l'ha pubblicato un'etichetta. Sì, ma... quella ora, dicevo prima, credo che sia per Ellen Scardale Agency, che non so bene chi siano, però è una... Comunque tutta roba molto molto piccola, come se io decido di avere un'etichetta e stampare... Credi che non abbia provato? Io ci ho provato a comprarli, solo che insomma non era semplicissimo, si può fare. Bene, Otterzi vi dà la buonanotte con Omit, grazie ancora a Filippo Panichi, noi ci sentiamo alla prossima. Settimana prossima. Sì. As we make Roman Earth. Cuddle Network Roman Earth. Cuddle Network Roman Earth. New Zealand Steel Glenbrook. New Zealand Steel. PSIS Wellington. Banking Group. ANZ Banking Group. Law House Counsel. Law House City Council. Unisys Link Operations. Genesis Link Operations. Pine Gold Guinness.